some cookie for my friends. Listen, baby. I gotta keep on moving, baby. Yeah, yeah, hello. Se penso ai primi passi che ho fatto in questo mondo, lettore sì, di sempre stile tutto tondo, emozioni vere che ogni giorno ricordo, stare sveglio notti intere per scriverle su un foglio. Con orgoglio salgo su sto volo, non ritorno, sforno rime come supa, dall'alba al tramonto accendo un puro di Buddha e non mi volto. Cammino solo, cuffie e soul, verso il mio sogno, verso chai indian, fumando indica sativa. Ma per il rap non mi manca mai saliva, in scime da prima, da sera mattina resto calmo come Anto quando è sotto morfina. Ste bimbe come Rocco le stendo a pecorina, fighe di legno do fuoco, le bagno di benzina come Messner, punto verso la cima, ogni rima una mina, star weed e la ballotta continua. Resto calmo, guardo l'alba, ne presso un altro, resto in alto, sono un fiore nato dall'asfalto, con radici radicato sempre, accendi il cuore, spegni la mente. Resto calmo, guardo l'alba, ne presso un altro, resto in alto, sono un fiore nato dall'asfalto, con radici radicato sempre, accendi il cuore, Vex, spegni la mente. Lord in drift, sputo flore stando comodo, resto cronico, dritto cima tempo col metronomo, trasformo rime da pensieri in pugno solido, ergo cogito, su un su un cilume, zitto botolo. Lo so che trovi insolito che sia fuori dal coro, ma ogni uomo la sa guerra e deve lottare solo. Ogni nodo viene al pettine in un modo o nell'altro, qui non vince quello buono ma il più bastardo. Gioco d'azzardo, strappo regole, traguardo, rispetto soltanto chi è rimasto al mio fianco. Stanco di chi blatera, vanvera da fiacco, se spacchi così tanto, beh, dimostralo sul palco. Mi basta un beat caldo, un mic e un G di Purple per dare forma ad ogni viaggio che traccio. Rollando sensi, dipingo versi tipo Caravaggio. Bless Funky Prez, questo era solo un assaggio. Resto calmo, guardo l'alba, ne presso un altro, resto in alto, sono un fiore nato dall'asfalto, con radici radicato sempre, accendi il cuore, spegni la mente. Resto calmo, guardo l'alba, ne presso un altro, resto in alto, sono un fiore nato dall'asfalto, con radici radicato sempre, accendi il cuore, spegni la mente. Resto calmo, e questo è Dogfish, tra Ravenna, tanto amore per i miei fratelli dall'asfalto. Big respect, is that for the country? One love.